cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai, bigliettini con gli auguri mi scriverai o bottiglie regalerai. Allora, per quello che mi riguarda, la pensione non è esattamente dietro l'angolo, per cui dovrete abituarvi, se mai questa azienda me lo consentirà, a sentirmi ancora per diversi anni dai microfoni di Radio 24. In ogni caso, buongiorno da Deborah Rosciani, la canzone di apertura svela il tema di apertura di Ma cos'è quest'estate di questa mattina, mercoledì 30 agosto. Parliamo di pensioni perché alle 12 presso la sede del Ministero del Lavoro c'è l'incontro tra il ministro Giuliano Poletti e i segretari generali di CGIL, CISL e UIL dedicato alle tematiche previdenziali. Adesso vi anticipo l'agenda di questo incontro di oggi, però volevo segnalare agli ascoltatori anche gli altri temi dei quali parleremo nel corso della trasmissione di questa mattina, in modo tale che possiate già prenotare i vostri interventi se lo volete all'800 24 00 24. In realtà, colpevolmente, me ne scuso anche con il centralino, vi invito ogni giorno ad intervenire in diretta, poi per questioni di tempo, perché il dibattito si fa caldo ed interessante con i nostri interlocutori in studio, non riesco mai a sentirvi, ma in realtà sul tema delle pensioni, che interessa a tutti, in particolare vi vorrei sentire questa mattina. Gli altri temi dei quali parleremo: il tema della siccità con l'acqua razionata a Roma, che è una notizia che colpisce, parleremo anche di quanto sta colpendo questa dura stagione estiva il nostro paese, non solo per le conseguenze su Roma, ma anche per le conseguenze sull'attività degli agricoltori in Italia. Ne parleremo dalle 9 alle 9.30. Poi, sempre per alleggerire un po', come facciamo abitualmente, il nostro programma nell'ultima parte, parliamo di un tema che in realtà leggerissimo non è, perché riguarda comunque il nostro portafoglio, il nostro denaro, ma c'è un tema che aveva incuriosito molto nei mesi passati, quello che riguardava la decisione di interrompere il conio delle monete da 1 e 2 centesimi sulla base di una scelta di governo, di un emendamento proposto da un parlamentare italiano a Boccadutri, per l'appunto, che avremo più tardi in diretta. A quanto pare invece non si può fare questa operazione, e quindi faremo il punto della situazione. Tutte le monetine che abbiamo nel nostro salvadanaio potremo continuare intanto ad usarle, ma soprattutto continueranno ad essere coniate. Quindi ne parleremo anche di questo nella seconda parte della trasmissione. Ribadisco, per tutti questi argomenti, se volete, potete intervenire in diretta all'800 24 00 24, cominciando proprio con il tema delle pensioni. E allora, di che cosa si parlerà oggi? L'agenda degli impegni di cui discutere è piuttosto nutrita. I primi due temi all'ordine del giorno: l'anticipo, possibilmente light, come l'hanno definito alcuni giornalisti, in particolar modo alcuni colleghi del Sole 24 Ore, della futura pensione contributiva di garanzia per i giovani, e un primo tentativo di favorire le adesioni alla previdenza complementare perfezionando la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata. È da queste due ipotesi di intervento, che sono allo studio dei tecnici di Palazzo Chigi e del Ministero del Lavoro, che riparte oggi il confronto fra governo e sindacati. Sulla cosiddetta fase 2 delle pensioni c'è stato questo protocollo che era stato siglato a settembre dello scorso anno, e quindi appunto questo appuntamento di oggi rappresenta la fase 2 rispetto a questi primi impegni indicati un anno fa. C'è un grande nodo da sciogliere: le risorse che sono a disposizione per allargare il raggio d'azione del pacchetto previdenza, che dovrà essere inserito nella prossima legge di bilancio. E sullo sfondo che cosa abbiamo? Anche se in realtà è sullo sfondo proprio per niente, ma in realtà è lì ben presente questo argomento, c'è il piano di cui abbiamo parlato anche in una precedente puntata per il rilancio occupazionale dei giovani, e il maxi incentivo necessario secondo il mondo dell'impresa, che è però molto costoso e non si capisce esattamente a quanto ammonti e come finanziarlo. Cosa dicono i sindacati? Insistono per rafforzare la dote che è attualmente a disposizione per l'APE, l'anticipo pensionistico. Oggi ribadiranno la loro richiesta di far partire al più presto la pensione minima di garanzia per assicurare un assegno previdenziale dignitoso ai giovani dell'era contributiva, che hanno, come sapete, carriere discontinue. E poi invocano anche i sindacati lo stop all'aumento automatico dell'età pensionabile per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita previsto per il 2019, ma su questo punto il governo in realtà non ci sente molto, perché è abbastanza improbabile che si possa fare. Padoan lo ha chiarito abbastanza spesso: pochi i fondi a disposizione e quelli che ci sono andrebbero concentrati sul taglio strutturale del cuneo per i giovani, sulla lotta alla povertà, sugli investimenti e sulla lotta alla povertà. Come sapete, anche questo tema del quale abbiamo parlato molto e sul quale torneremo in maniera molto insistente a partire dalle prossime settimane, il Consiglio dei Ministri, come sapete, ha approvato il decreto che introduce il reddito di inclusione, una misura per 400.000 famiglie, 1.800.000 persone. Di cosa, con chi parliamo di tutto questo questa mattina? Intanto ringrazio e saluto per essere con noi, perché mi aiuta anche, magari se vuole, nell'intervista agli altri due ospiti, il collega del Sole 24 Ore che è l'uomo delle pensioni, Davide Colombo, che saluta e ringrazio. Davide, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio per essere con noi Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, ma in passato, non so se tra l'altro gli piace che lo ricordi, ma a me piace ricordarlo spesso, invece è stato anche uomo, tra virgolette, di governo, sottosegretario al welfare del governo Maroni, è stato l'autore, l'estensore materiale, il padre della riforma del trattamento di fine rapporto. Brambilla, ben ritrovato, buongiorno professore, grazie. Buongiorno, buongiorno a voi. E grazie per essere ritornato con noi. Ormai è una buona abitudine invitare almeno una volta a settimana Marco Bentivogli, segretario generale della FIM-CISL, per l'apporto buongiorno. Sindacale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Davide, io volevo cominciare con te con una battuta che può apparire scontata, ma io so già, perché già ventilando un po' l'ipotesi in questi giorni di parlare di questo argomento e delle misure che si stanno ipotizzando, che sarebbero allo studio appunto del governo, tra quelle che si vorrebbe fare subito e quelle che si potrebbero fare per le risorse disponibili, che sono sempre troppo poche, gli ascoltatori immediatamente commentano: eccoli qua, arrivano altri soldi. E naturalmente le elezioni sono dietro l'angolo, per cui la tentazione di ogni governo in naturale scadenza è sempre quella, naturalmente, di ricercare del consenso laddove lo si può trovare facilmente, perché la platea su cui intervenire è estremamente ampia, in questo caso quella dei pensionandi. Un mucchio di voti, un bacino per il consenso elettorale enorme, quindi da lusingare anche attraverso questi interventi. Siamo noi che siamo un po' come sempre cattivelli, o gli ascoltatori che sono sempre un po' maliziosi, o comunque alla fine la tentazione è sempre quella e c'è, è evidente anche da parte, insomma, voi osservatori di questo settore specifico, cosa ne pensate? Come dire, è difficile negare che stranamente il cantiere previdenziale in Italia, inteso come area di policy su cui i governi intervengono, è sempre aperto. Probabilmente c'è anche questa dimensione, anzi direi che ha un peso specifico notevole questa dimensione elettorale che tu giustamente evochi, perché non è pensabile che una comparto regolatorio come questo debba necessariamente essere come dire, oggetto di interventi, di ritocchi al margine, di riforme un po' più incisive, qualche volta di interventi strutturali praticamente ogni anno. Quest'anno con questa legge di bilancio si prospettano appunto delle ipotesi di ulteriore intervento, che sono questa volta, diciamo, al margine di un pacchetto previdenziale, quello che è stato varato l'anno scorso, che per la prima volta dopo diversi anni, anziché avere come obiettivo una moderazione della spesa, ha innescato nuova spesa strutturalmente. Quindi una maggiore spesa per pensioni con diversi provvedimenti fortemente caldeggiati dal fronte sindacale e accolti dal governo e resi vigenti. Penso alle nuove quattordicesime, penso all'allargamento duplice della no tax area per le pensioni più basse, penso all'ottava salvaguardia. Insomma, sono stati presi provvedimenti di spesa che non avevano precedenti. La stessa Ragioneria Generale lo ha sottolineato nel rapporto di qualche settimana fa. Ora si parla di nuove misure che naturalmente dovranno fare i conti con i soliti vincoli di bilancio che caratterizzano la nostra politica economica. Concretamente, insomma, secondo te, Davide, che cosa riusciranno a portare a casa, a prescindere dalle priorità che saranno indicate dai sindacati, a prescindere appunto dalle misure che potrebbero avere questa vocazione elettorale, quindi che riuscirebbero a far trovare magari, insomma, maggioranza, più consenso? Ma a parte questo, ecco, andando proprio ai numeri. Dunque, io penso che sicuramente la parte, diciamo, il provvedimento di ulteriore flessibilizzazione, chiamiamolo così, di RITA, cioè la rendita integrativa temporanea anticipata, che fa fare un passo in avanti, diciamo, all'obiettivo di maggiore adesione e maggior utilizzo della previdenza complementare, non vedo ostacoli, diciamo, di natura contabile, finanziaria o contabile. Sulla garanzia per i giovani, cosiddetta garanzia per i giovani, io naturalmente sono pronto ad essere smentito, ma io mi aspetto un intervento abbastanza simbolico, diciamo di valore piuttosto segnaletico, nel senso che oggi le pensioni contributive hanno una possibilità di cumulo con l'assegno sociale piuttosto limitato, fino a un terzo del reddito da pensione. Probabilmente si lavorerà a limare quel terzo per renderlo un po' più basso, rendere totale il cumulo subito forse già ha dei costi che non sono sopportabili immediatamente, e contemporaneamente probabilmente si potrebbe agire, potrebbero decidere di agire sul ritocco della soglia minima che oggi bisogna superare per andare in pensione con 20 anni di contributi a 66 anni e 7 mesi con la vecchiaia. È una soglia minima di 1,5 volte la pensione minima. Diciamo che sono provvedimenti che interesseranno spesa previdenziale futura, nel senso che interesseranno in particolare coorti di lavoratori nati negli anni 80-90, che quindi andranno in pensione tra qualche decennio, nel 2040-50-60. Però se si fanno queste modifiche nei tendenziali di spesa, bisogna subito contabilizzare una nuova traiettoria, appunto, della spesa. Quindi si tratta di capire se l'intervento avrà un valore, appunto, come io penso, di tipo simbolico, oppure certo, se sarà più pesante. Non credo invece, la terza cosa di cui si parla anche sui giornali di ieri, il congelamento dell'innalzamento ecco, io quello penso, dalle prese di posizione abbastanza esplicite che sono arrivate da esponenti del Ministero dell'Economia, non penso proprio che quello si tocchi, ma soprattutto per il fatto che quello stabilizzatore di spesa ha un valore, ancora una volta dico segnaletico, ma molto importante per chi osserva l'andamento degli aggregati di spesa corrente di questo paese. Cioè, se si tocca quello stabilizzatore lì, si in qualche modo mette un pochino di nuovo in discussione uno dei punti, tra virgolette, di forza del nostro sistema, cioè quello della sostenibilità finanziaria. Io francamente lì darei abbastanza per scontato che alla fine che non venga preso in considerazione. In realtà Davide, ieri, anticipando un po' quelle che sarebbero state le richieste presentate al tavolo di oggi delle 12, la UIL questo lo mette proprio come primo punto. Si aspetta, ieri ha detto il sindacato, dal governo risposte chiare proprio. Innanzitutto, primo punto che oggi presenteranno, congelare l'innalzamento dell'età di accesso alla pensione previsto per il 2019. Sì, no. Guarda, ti interrompo perché io il sindacato voglio sentirlo, voglio sentire Marco Bentivogli se è d'accordo con questa agenda indicata da altri sindacati. Quali sono le priorità vere? Secondo voi, Bentivogli, quali temi potrebbero essere invece, anche in senso responsabile, rinviati? Ma innanzitutto la partita è un po' più ampia della sola questione del congelamento del punto. Su questo vorrei dire, noi nel 2007 fece un accordo con il governo per cui anche sull'adeguamento del coefficiente automatico si stabilivano dei momenti di verifica congiunta rispetto a questo tipo di automatismo. Anche continuare a ragionare di speranza di vita media di una popolazione è ridicolo, perché la speranza di vita media è la media del pollo tra chi lavora e fa un lavoro veramente usurante. Poi ci possono essere degli abusi, ma sono talmente pochi i lavori considerati usuranti che è assolutamente ridotta questa possibilità. E chi fa un lavoro di concetto, c'è una diversificazione anche sulla vita che realmente si potrà fare al momento tanto agognato di arrivo alla pensione. E queste sono cose che vanno tenute in considerazione. Io sono molto contento che finalmente si arrivi alla gestione della fase 2, perché occuparsi della vicenda previdenziale solo dei prossimi futuri pensionati e dei pensionati è solo una parte del problema. Noi abbiamo una questione generazionale che è grande, gigantesca, perché bisogna ricordare a tutti che dopo il 2030, cioè quando andrà in vigore il sistema contributivo, le pensioni saranno dopo 40-45 anni di lavoro attorno al 46-50% dell'ultimo stipendio. Se un metalmeccanico guadagna 1.600 euro al mese, voi provate a immaginare se dal mese successivo all'arrivo alla pensione si può vivere con 750. Noi proprio per questo diciamo, prima di ragionare di tutte queste cose, qui sì con grande responsabilità, perché non facciamo come è previsto, tra l'altro nell'agenda proprio di oggi dell'incontro, un ragionamento più serio sulla previdenza complementare. Io personalmente, la FIM, siamo d'accordo all'obbligatorietà della previdenza complementare, perché altrimenti se pensiamo che con meno della metà dello stipendio si possa campare, questo è assolutamente del tutto velleitario. E lo dico perché il precedente governo era partito proprio male, aveva disincentivato la previdenza complementare, altro che obbligatoria, e aveva fatto quel provvedimento contro le nuove generazioni che era il conferimento del TFR in busta paga. Guarda, allora per proprio fortuna. Chiamato la persona giusta stamattina facendo intervenire Brambilla, perché veramente, cioè, forse non gli crederà vero, non gli sembrerà vero quello che sta dicendo Bentivogli, addirittura di renderla insomma obbligatoria, perché ma io mi ricordo dopo le racconto quello che ci successe quando facevamo tante trasmissioni sul famoso semestre del silenzio assenso che appunto doveva consentire ai lavoratori di trasferire il TFR maturando appunto nelle forme di previdenza complementare. Non ne dico quante contestazioni invece arrivavano proprio solamente per quel meccanismo che non era obbligatorio, ma era solo appunto questo meccanismo di silenzio. Se nessuno diceva niente, il TFR andava direttamente lì e già veniva percepito male. L'obbligatorietà ci sembra, come dire, una indicazione coraggiosa da parte del sindacato. Perché dico questo? È semplice, noi abbiamo nei metalmeccanici uno dei fondi previdenziali più grandi che c'è in Europa, si chiama Cometa. Cometa, certo. In questo fondo aderiscono, e questo è il nostro grande fallimento, perché il sindacato non le azzecca sempre, bisogna ammetterlo, il grande fallimento è che i più giovani non sono quelli più propensi a iscriversi, e invece sono proprio quelli che ne avranno bisogno, perché appunto andranno in pensione nel 2030. Noi proviamo a pensare a un sistema previdenziale integrativo non obbligatorio. Chi ha versato tutta la vita lavorativa TFR e un pezzo della propria retribuzione, incentivata dalla retribuzione dell'azienda, in pochi lo raccontano questo, perché l'azienda, chi si iscrive nel fondo complementare... E certo, versa la stessa quota che tu versi. Esattamente. Certo. Esattamente. Ma a me sembra veramente assurdo che ancora si dica, dopo più di 10 anni appunto dal varo di quella riforma, che i lavoratori ancora non lo sappiano, Bentivogli, perché qua anche un po' il sindacato un po' di responsabilità se le deve assumere rispetto a questo trasferimento di ecco, esatto, no? Perché assolutamente ci dobbiamo assumere, ma infatti io sono molto contento che oggi i 3 segretari generali, Anna Maria Furlan, per quello che mi riguarda, sosterranno proprio questa impostazione. Mm-hmm. Proprio perché proviamo a immaginare, c'è chi dice no, nel fatalismo e che spesso contraddistingue la nuova generazione, tanto noi la pensione non arriveranno. È bravo. E invece c'è quello accanto che tutti i mesi costruisce la sua pensione integrativa. Quello che tutti i mesi costruisce la sua pensione integrativa al momento della pensione dovrà sostenere con le sue tasse il welfare state di necessità, a quel punto, di chi non se l'è costruita, perché io nelle assemblee lo dico battuta: se la pensione sarà la metà dell'ultimo stipendio, di solito la pizza che si fa con i colleghi il giorno della pensione scomparirà, ci sarà, esatto, qualcosa di molto più difficile. Bentivogli, la devo brutalmente interrompere, abbiamo ancora mezz'ora di tempo per completare i nostri ragionamenti, solo perché devo dare la linea alla regia per la pubblicità, ma torniamo immediatamente. Ma cos'è quest'estate? Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Immagino che dai commenti di Marco Bentivogli, segretario della FIM CISL, lei abbia preso tanti appunti, tanti che naturalmente immagino io si sente di spalleggiare sul tema della previdenza complementare. Questo è un sindacato sicuramente che ha delle posizioni estremamente coraggiose. Intanto, a proposito di posizioni, ne leggo tante anche da parte degli ascoltatori sul medesimo argomento. Ci sono ascoltatori, come dice Giorgio Giovanna da Brescia, che sono assolutamente favorevoli alla previdenza complementare. Addirittura Giovanna dice: se si vuole l'obbligo, allora ci si dia anche la libertà di scegliere al 100% la previdenza privata. Se avessi versato, dice, tutti i contributi ad un fondo privato, ora avrei una pensione da favola anziché da fame. Altri ascoltatori segnalano invece che il fondo a cui hanno aderito ha dei rendimenti non soddisfacenti, per cui non ritengono una scelta valida quella fatta. C'è anche da dire che, dovendo costruirvi la pensione del futuro d'appoggio, secondo e terzo pilastro, le gestioni di questi fondi sono generalmente molto prudenziali, per cui non aspettatevi dei rendimenti da favola, proprio perché anche le posizioni di gestione sono prudenti. Alberto Brambilla, allora, in realtà con lei volevo fare tanti altri ragionamenti, però per prima cosa le chiedo un commento rispetto a quello che diceva Marco Bentivogli poco fa. Sì, allora sarò telegrafico perché mi preme di più l'argomento, come dire, generale, cioè questa, sono d'accordo con Davide Colombo quando dice non è pensabile e non esiste in nessun altro paese al mondo che ogni anno noi dobbiamo parlare di pensioni. Oltretutto con un sistema di disinformazione che è totale, nel senso che noi ci sforziamo, anche quest'anno abbiamo presentato al governo e alle commissioni parlamentari il rapporto annuale sul sistema previdenziale italiano. Sulla sostenibilità del sistema più che altro, no? Evidenziando però due cose fondamentali. La prima, che il sistema pensionistico, così come è stato costruito, si parlava prima dell'adeguamento all'aspettativa di vita, tra parentesi, non esiste alcun paese che abbia differenti aspettative di vita, o non esiste una base scientifica per cui anche nei consessi internazionali l'aspettativa di vita in un paese è una sola, perché se no avremmo 8.000 comuni, 8.000 aspettative di vita. Ma al di là di quello, voglio dire, il sistema pensionistico, avendo questi due stabilizzatori automatici, cioè l'adeguamento all'aspettativa di vita e i coefficienti di trasformazione, è in sostanziale pareggio. Anzi, se io dovessi togliere l'integrazione al minimo che vengono date per motivi di reddito, che costano 10 miliardi l'anno e che sono una tipicamente una manovra assistenziale, il sistema pensionistico sarebbe inattivo. Che cosa sta esplodendo in Italia? Sta esplodendo l'unica parte che non è stata imbullonata, cioè che non ha avuto una riforma, che è la parte assistenziale. Nel 2016 la prima stima è che il sistema pensionistico costa 180 miliardi, il sistema assistenziale veleggia verso i 110 miliardi. E quello che è stato detto prima è un po' late, e l'ottava salvaguardia e la quattordicesima mensilità e la proposta del PD di dare a tutti la top e peggio del è tutta tutto. Roba assistenziale, dice lei, sulla quale continuano ancora a perseverare. Siamo già arrivati solo con queste proposte a più di 7 miliardi senza toccare nulla. Quindi quello che voglio dire io, mi sembra assurdo. Secondo tema, vado per capitoli. Il tasso di sostituzione. Il tasso di sostituzione che è stato calcolato dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall'INPS. Ci spiega agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando, che cos'è questo elemento di costituzione dell'assegno pensionistico. Che io stimo molto e sono perfettamente d'accordo con quello che diceva sulla previdenza complementare, diceva appunto che il tasso di sostituzione, cioè che è il rapporto tra l'ultimo stipendio e la prima rata di pensione. Ecco, in questo caso credo ci sia una mancanza di circolazione di notizie. Perché? Perché il metodo di calcolo contributivo ha un punto di equivalenza, sarebbero i giovani, quelli che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio del 96, a un punto di equivalenza col metodo di calcolo retributivo, che era un metodo di calcolo di Sennac che ci ha creato tanti debiti, verso i 63-64 anni. Quindi questo rapporto è ancora più favorevole per i giovani, perché vanno in pensione più tardi. Immaginate, La proiezione è un ragazzo che comincia a lavorare a 24 anni, ha nella sua carriera lavorativa oltre 7 anni di buco, va in pensione a 67 anni, avrà un rapporto di circa, se è un lavoratore dipendente pubblico o privato, di circa il 70%. Quindi è ovvio che serve la previdenza complementare, ma non perché il sistema pensionistico dia poco. E qui noi dobbiamo studiare bene questa cosa, perché se andiamo a dire ai giovani, e lo dico a Bentivogli che ripeto, so che cosa fa, se diciamo che il 40%, a parte che diciamo una cosa non vera, perché io come faccio a dire a mio figlio versa il 33% di contributi per 30-35 anni per poi avere il 40% per gli ultimi 20 anni di vita? Sarebbe un assurdo. Però noi dobbiamo dare l'informazione che la pensione è robusta, e tra l'altro basta vedere le classifiche internazionali per andare a dire, certo, che sostanzialmente il nostro rapporto, la nostra pensione è tra le più alte dei paesi. Lo so, ecco, perché molti non ci credono. Tenevo a dire no, questo, ma ha fatto bene a fare anche un ragionamento appunto di contesto, perché ancora una volta passa la sensazione che in certi ambiti si intervenga solo perché ovviamente è lo Stato che ti vuole fare il dispetto, perché l'INPS è stata gestita male in passato, perché non si capisce la famosa riforma Dini del passaggio dal retributivo al contributivo, e si fa molta fatica a capire che il nostro è un paese, come tanti altri, che vive un processo demografico inevitabile, che forse non è neanche destinato ad arrestarsi, che le condizioni economico-finanziarie di oggi sono radicalmente diverse rispetto a quelle del passato, e quindi in contesti nuovi bisogna adeguarsi ed imparare a ragionare. Brambilla, detto questo, che ho fatto la mia piccola lezione che non interessa a nessuno di economia, però mi scontro anch'io molto spesso con ragionamenti di questo tipo con persone che, quando arriva la pensione o proiettano la loro situazione nel futuro, non capiscono le dinamiche che attengono a certe scelte, anche impopolari e molto impopolari a volte. Brambilla. Perché nel messaggio che le ha dato il suo radioascoltatore, che dice: ma se avessi versato i contributi alla previdenza privata avrei avuto una ricca pensione mentre lo Stato. Ecco, non è così, perché basta soltanto vedere i coefficienti di trasformazione, cioè quel numerino che trasforma tutto quello che hai versato nel tuo salvadanaio in una rendita pensionistica, il coefficiente pubblico e quello privato, per rendersi conto che c'è una differenza intorno al 20%. Quindi la prima cosa che io mi sentirei di dire è: uno, diamo l'informazione corretta, perché le nostre pensioni non sono così male. Che cosa è male? È male il reddito, lo stipendio. Purtroppo in Italia, e non so di chi sia la colpa, i redditi da lavoro sono molto molto molto bassi, per cui se uno ha il tasso di sostituzione, cioè il rapporto, la sua pensione aveva 1000 di stipendio, se io gli do anche il 70% contro il 30% dell'Inghilterra, sono sempre praticamente 700 euro. Quindi da lì noi dobbiamo dire: hai un buon tasso di sostituzione, versa i contributi, e lì poi io mi aspetto che mi chiederete sul taglio dei contributi e della decontribuzione. Ho assolutamente voglia di chiederlo. Purtroppo 10 minuti di tempo ce la dobbiamo fare. Perché sono due. È un paese che non ha memoria, perché l'ha fatto già per 20 anni e non è successo nulla, anzi è stato drammatico. Quindi dare il messaggio che il tasso di sostituzione è buono, la pensione pubblica è buona e che bisogna fare previdenza complementare. E i sindacati, in questo caso, devo dire, è andato nella direzione giusta, perché istituendo il cosiddetto contributo contrattuale, per esempio per il fondo Prevedi per le costruzioni, ha fatto sì che da 40.000 fossero 450.000 gli iscritti. Quindi io mi aspetto da parte del sindacato questa azione di portare in tutte le parti questo contributo, in modo tale che tutti i metalmeccanici un domani saranno iscritti. Poi dopo si tratterà di fare in modo che anche i giovani capiscano che c'è questa necessità. Sì, quindi poi anche lì però i futuri governi dovranno fare pace con il loro cervello, una volta che magari si stimola un po' di più il tasso di adesione alle forme di previdenza complementare, il mondo del lavoro si sensibilizza un po' di più rispetto a questa scelta, basta di intervenire anche sulla tassazione per renderla meno, perché l'intervento del 2015, che molti ascoltatori, una marea, mi stanno scrivendo appunto, dopodiché non è che tu una volta che inviti i lavoratori ad aderire poi gli cambi, gli rimoduli in senso peggiorativo la tassazione e il disincentivo positivi di nuovo, per cui anche non lì non possono uscire. Il tema è che tu li hai fatti entrare con una tassazione agevolata e quando non possono più uscire, perché possono uscire solo per la perdita dei requisiti di partecipazione, quindi se vengono licenziati non possono più uscire, e a tradimento il governo Letta prima e il governo Renzi poi hanno fatto questa tassazione che è veramente ignobile. Mi aspetto che il sindacato insista molto su questo punto. Davide Colombo, l'agenda dell'appuntamento delle 12 di oggi noi la stiamo riscrivendo praticamente da qua sta emergendo appunto un'altra serie di priorità. Sì, e tra l'altro come dire, riflessioni che spostano molto anche in chiave, come dire, di frontiera innovativa, no? Il tipo di agenda. E una domanda che mi verrebbe da fare a Bentivogli, un po' anche trascinata dalle considerazioni ora del professor Brambilla, è questa: ma le parti sociali perché in questo, come dire, passaggio di ulteriore reintervento sulla previdenza non riconsiderano due oggetti che hanno veramente oramai un po' il sono molto simili a dei residuati bellici che stanno nei nostri contratti, un po' vetusti, dici. E cioè il TFR e gli scatti di anzianità sono due cose che non c'entrano nulla col sistema contributivo, che hanno un peso, no, nella busta paga dei lavoratori. Perché non riformare quei due strumenti e liberare quelle risorse, distribuirle magari meglio col ciclo di vita, magari dando un po' più soldi ai giovani, visto che giustamente c'è una questione salariale, certo. E appunto per questa via magari considerare che uno può fare delle scelte di risparmio previdenziale. Marco Bentivogli, insomma, la sua l'accoglimento rispetto a questa tra virgolette provocazione è sì, ci manca pure questo, oppure no, il sindacato in realtà accarezza queste idee da un po', ma non è il caso di venire allo scoperto anche con questi temi da proporre alla platea degli iscritti? Ma io rappresento un sindacato che le sfide di solito le raccoglie molto coraggiosamente, le rilancia, però vuole che siano sfide comuni. Sul TFR noi abbiamo sostenuto che il TFR andasse conferito, e per cui quello è chiaro che era un primo passo per un ragionamento di diverso tipo, tanto che in questo contratto dei metalmeccanici, quello di novembre, abbiamo fatto aumentare il contributo previdenziale fino al 2%, che sono tanti soldi, proprio per i lavoratori che si iscrivono alla previdenza complementare. Sempre nella stessa occasione c'è stata una richiesta di superare gli scatti di anzianità. Io ricordo di aver dato una disponibilità, però deve essere una disponibilità in cui non perde sempre il lavoratore, perché questo è inaccettabile. La disponibilità era inserire, spostare questi meccanismi automatici dentro la riforma dell'inquadramento professionale. Colombo forse non sa che nei metalmeccanici, che è la più grande categoria, più grande contratto collettivo privato del paese, l'inquadramento professionale è fermo al 1973. Questo per le resistenze che sempre hanno avuto le imprese a superare la valorizzazione del lavoro, che non è più quello del 73, e per cui anche dal punto di vista economico, valutando il ruolo personale e non con delle forme astratte di mansioni tecniche che non c'entrano più nulla. Per cui sono tutte sfide che noi abbiamo accettato e che però su cui rilanciamo, perché in tutti gli altri paesi la valorizzazione del lavoro è una cosa più rotonda, e purtroppo noi siamo rimasti a elementi di riconoscimento legati a automatismi e anzianità, proprio perché da parte delle imprese c'è sempre stata chiusura a spostarsi su un riconoscimento più dinamico. Insomma, un mercato del lavoro che ancora non si adegua a tante dinamiche nuove fa un po' fatica. Io volevo però toccare due aspetti velocissimi. L'ascoltatrice diceva i rendimenti non sono così buoni. Beh, nel 90% dei casi i fondi complementari battono sempre il TFR in termini di valutazione. Per cui significa che un euro lasciato nel TFR rende e si rivaluta di meno di un euro messo nei fondi complementari. All'amico Brambilla, qui ricambio tutta la stima, è fonte di tantissimi dati e valutazioni che sono sempre molto utili. Vorrei dire, la questione delle aspettative di vita va considerata non alla vecchia maniera. Io ricordo tanti anni fa, mi capitò di leggere la valutazione sulla speranza di vita dei lavoratori francesi. E lì era fatta in maniera talmente seria, pensate che c'era una valutazione con un anno e mezzo di vita maggiore nella stessa industria, nello stesso settore, a passare dal privato al pubblico, e cioè il lavoratore della Renault, che è completamente pubblica, viveva in media un anno e mezzo in più del lavoro Peugeot, del lavoratore Peugeot Citroën, per cui sempre fabbriche auto, sempre. Ma allora, immaginare che io, questi sono dati interessantissimi secondo me, io è chiaro che faccio il sindacalista che punta su un lavoro che sia sempre meno usurante, che utilizzi le tecnologie proprio per umanizzare il lavoro stesso, però ci sono ancora tantissimi lavori in cui quando arrivi alla pensione davanti hai poca strada, e su questo fare la media lineare è un esercizio sempre sbagliato. Io non lo dico per difendere posizioni di retroguardia, per no, è un dibattito, è ovvio che il giornalista, la fatica che fa, noi per definizione non lavoriamo per niente, rispetto al camionista è ovvio che hanno Ecco, chi stende l'asfalto ad agosto in autostrada non è che è facile che arrivi a 90 anni di vita. L'ultimissima battuta sui conti, poi la discussione si può riaprire in altre occasioni. Con il sistema contributivo, il tasso di sostituzione di cui parla Brambilla è un tasso di sostituzione che prevede una carriera e per cui un percorso di progressione di carriera e conseguentemente di salario piuttosto in ascesa, e per un lavoro che non ha soluzione di continuità, e cioè i 40-45 anni e più di lavoro che svolgo non avranno soluzione di continuità. Bisogna ricordare a tutti che in media si parla di almeno 7 aziende che si cambieranno lungo la vita lavorativa. È così assicurato che sarà tutto senza soluzione continuità? Spesso noi abbiamo periodi di buchi in cui le persone non lavorano e neanche pertanto percepiscono lo stipendio e pagano i contributi. Poi bisogna avere anche la capacità, lo dico a Colombo, separiamo anche chi fa sindacato con i soliti totem per cui parla di articolo 18, voucher, esodati, perché non capisce più neanche il lavoro che fa, da chi invece cerca di affrontare anche la partita degli esodati. Dentro quelle 8 salvaguardie ci sono persone disperate che hanno perso tutto, ci sono anche, lo dico da sindacalista, persone che hanno preso liquidazioni milionarie dalle imprese e dopo hanno chiesto di essere considerati degli esodati. Esodati, sì, sappiamo le sperequazioni che sono state. Ma non possono cancellare i primi, cioè i primi, la parte che veramente disperati sono stati, gli è stato cambiato il sistema e per cui gli è stato allontanato. Guarda, ce lo ricordiamo molto bene quello che è successo, per cui non dobbiamo neanche rispolverare la memoria su questo. Senta, Davide, ha risposto alla tua domanda su TFR scatti di anzianità vetusti da eliminare in busta paga? Ma io appunto, come dire, bene che si facciano delle riflessioni per il rinnovo del contratto dei meccanici, io appunto spererei che si faccia una riflessione proprio di sistema, cioè di modello dei contratti nazionali, sapendo che per esempio sono due variabili, gli scatti di anzianità e il TFR, così come sono disegnati nei nostri contratti oggi, che solo nell'eurozona io non incontro, insomma. Posso dire solo due battute sulle altre considerazioni, molto velocemente. Sull'adeguamento automatico all'aspettativa di vita, differenziando questo stabilizzatore per i tipi di mansioni, il modello svedese di sistema contributivo, che è stato fatto in maniera molto più coerente del nostro, è stato subito applicato ed è oggetto di studio internazionale come il modello, diciamo, contributivo in questo momento migliore. Ecco, gli svedesi, che sono molto attenti a come funzionano questi meccanismi, hanno rinunciato per ora a riflettere su sistemi di adeguamento differenziati per tipologie di lavoro, proprio perché diventa un po' difficile poi gestirlo, cioè diventa un po' arbitrario. Faccio un esempio così flash. L'aspettativa di vita si usa in molti altri contesti. Il sistema assicurativo nazionale ti fa una polizza assicurativa sulla base dell'aspettativa di vita. Non è che poi cioè il fatto che si utilizzino questi strumenti in maniera standardizzata e certa, non alla fine di un dibattito sindacale, ha un suo senso, perché rispondono a delle logiche di rischio opportunità su delle stime che in termini di equilibrio attuariale ti dicono esattamente qual è la rendita, ecco, di cui tu puoi avere diritto. Detto questo, poi non ci dimentichiamo mai ovviamente che stiamo parlando tutti con la situazione attuale di un paese che peraltro sta ricominciando a vedere dei segnali di risveglio economico, ma stiamo parlando di una situazione al netto di eventuali altri shock finanziari o economici come quello appunto del tra il 2008 e in avanti, che potrebbero di nuovo rimescolare le carte di questo sicuramente appassionante dibattito. Non riesco a far dire a Brambilla se secondo le loro simulazioni il governo ha i soldi per poter portare avanti lo sgravio contributivo chiesto dal mondo dell'impresa per assumere i giovani, fermo restando che non è ancora stata stabilita la soglia di età dei giovani attorno alla quale far ruotare questa manovra. Ma Brambilla, in 30 secondi, ce le abbiamo le risorse? Non stiamo parlando di milioni di euro, ma di miliardi da mettere in campo. 40 secondi. Allora, 40 secondi deve essere telegrafico. Primo, l'unica cosa certa sarà la rivalutazione delle pensioni, che dopo 3 anni di rivalutazione zero, l'anno 21 si rivaluteranno di circa l'1,2-1,3%, con una spesa di 1,7 miliardi a carico dell'erario. Lì però bisognerà fare attenzione, perché per 2 volte abbiamo avuto meno 0,1 di inflazione, quindi bisogna vedere se una legge di bilancio il governo deciderà di recuperare questi 0,2 da sottrarre all'1,3%. Comunque l'unica cosa certa è che si rivaluteranno le pensioni. Per quanto riguarda lo sgravio contributivo, è sostanzialmente una controriforma e un errore, e potrebbe costare nei primi 10 anni circa 25 miliardi. E quindi non credo che ci siano le riforme. Ultimo, noi abbiamo avuto praticamente una situazione in cui, grazie alla politica del quantitative easing di Draghi, lo Stato ha risparmiato un'enormità di... Devo chiudere velocemente? Di quattrini, e quindi... Siccome abbiamo risparmiato 50 miliardi di interesse sul debito pubblico, ma in questi 4 anni abbiamo fatto 228 miliardi di debito in più, spero che non si facciano ulteriori... Chiarissimo, grazie, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Ma cos'è quest'estate? Acqua pioverà, acqua asciugherà, acqua bagna questa terra, acqua splenderà. Beh, insomma, sono notizie che veramente il 30 agosto del 2017 colpisce veramente doverle sentire e raccontare. Il razionamento dell'acqua in alcune delle più grandi città italiane succede a Roma, nella Cap Mundi, dove la CEA ha deciso, lo si è appreso appunto qualche giorno fa, di adottare un piano di riduzione, non si parla di razionamento ovviamente, ma di un piano di riduzione controllata delle pressioni della rete idrica nelle sole ore notturne per quanto riguarda i comuni di Roma e Fiumicino, causa naturalmente il perdurante stato di straordinaria siccità. La società appunto lo ha annunciato in una nota e ha aggiunto anche che la misura si è resa necessaria malgrado la riparazione di oltre 1300 perdite. È una situazione piuttosto difficile quella che sta vivendo in questo momento il nostro paese, un'estate colpita da un caldo torrido che da molto tempo appunto non si registrava. Chiaramente ne stanno subendo tutti i contraccolpi, anche le colture, l'attività appunto degli agricoltori. Quindi stamattina metteremo insieme in questi 20 minuti un po' tutti questi argomenti. Prima di tutto saluto la nostra Elisabetta Fiorito, collega di Roma, che ovviamente in primo luogo è romana, quindi cittadina, e magari ci racconta anche questo stato dell'arte anche da questo punto di vista. Come avete accolto questa simpatica notizia dell'acqua, di questo piano di riduzione controllata? Mi viene a dire acqua razionata, ma non è così perché è un po' troppo forte, Elisabetta. Però insomma, c'è qualche disagio fra la popolazione o comunque ancora la misura non è scattata? Perché io questo mica l'ho capito. No, la misura scatterà lunedì. Ecco. Doveva scattare questa sera, poi la CEA ha rimandato perché sono previste piogge da venerdì a domenica, quindi si pensa che se dovesse piovere la misura potrebbe non scattare. Ovviamente è l'ennesimo disagio in una città dove funziona tutto molto lentamente e in modo molto farraginoso rispetto a Milano, dove vi trovate, però questa volta Noi siamo fin troppo frenetici invece, Elisabetta, abbiamo il problema al contrario. Quest'oggi non possiamo certo accusare la sindaca Virginia Raggi di questa debacle, no. Anche perché è una cosa che ha a che fare con il tempo, il meteo, la Coldiretti l'ha detto, ad agosto è piovuto l'82% in meno rispetto all'anno prima, ma questa situazione perdura da maggio, è stata un'estate particolarmente calda e poco piovosa. Ora c'è da fare però i conti anche con una sorta di emergenza che la capitale ha in tutti i campi, no? C'è l'emergenza autobus, c'è l'emergenza rifiuti. Rifiuti. Allora, per quanto riguarda l'acqua, la CEA è vero che ha tappato da luglio, da quando si è cominciato a prospettare questa emergenza, perché ricordiamo che a inizio agosto già si era parlato di razionamento dell'acqua. E poi la città si è svuotata perché le persone sono andate in vacanza, lunedì ci sarà il grande rientro, già molti sono rientrati, però lunedì sarà il momento clou e quindi se non dovesse piovere l'acqua non ci sarà per tutti. Ora, come dice il presidente di Acea, rinnovata la rete degli acquedotti, soprattutto si dovrebbe fare un investimento sull'acquedotto Peschiera, una struttura che ha ormai 80 anni, e che costerebbe mezzo miliardo. A quel punto, ha detto il presidente della CEA, Roma potrebbe essere indipendente senza dover anche andare ad approvvigionarsi al lago di Bracciano, perché sappiamo che il problema è anche connesso con l'approvvigionamento al lago di Bracciano, che è stato fermato dalla Regione Lazio in quanto il lago ha un pericoloso livello inferiore alla media. Insomma, è tutta una situazione molto rabberciata. Bisogna capire che cosa succede lunedì notte alle ore 23:30, Deborah, quando scatterà l'emergenza, l'ora X in cui i piani alti delle abitazioni potrebbero non ricevere per niente acqua e quelli bassi una diminuzione di pressione fino alle 5:30 del mattino. Tutto questo, ricordiamo, se non dovesse piovere, visto che domenica è attesa questa grande pioggia, è atteso tempo brutto. Da noi arriva venerdì e sabato, ve ne manderemo un po' qua in attesa, cioè ci viene da sorridere, ma c'è poco da ridere rispetto a questa situazione che per un cittadino, ribadisco, nel 2017 sembra veramente allucinante. Ma poi se tu immagini una città che nel primo secolo d.C. aveva 1 milione di persone e aveva l'acquedotto più funzionante al mondo, questa cosa è anche molto, è vero, non c'era l'effetto serra allora, però sicuramente fa riflettere. Certo. Dall'altra parte ricordiamo però che fa parte di una serie di disagi che la città sta affrontando in questo periodo e che sembrano non finire mai, per cui è veramente diventata una città che sta regredendo. Dobbiamo, io lo dico da romana, quindi lo dico col cuore, però dobbiamo noi romani veramente andare a fare una full immersion a Milano, sia per quanto riguarda le metropolitane, sia per quanto riguarda la città. Dai, facciamo questo gemellaggio, lanciamo oggi questa idea che è un po' ovviamente folcloristica, se vogliamo. Detto questo, è chiaro che le buone pratiche di gestione di determinati settori ed ambiti dovrebbero essere copiati tra sindaci, però chiaramente le città sono molto diverse, soprattutto su Roma, che ha anche un pregresso di questioni da affrontare. Ci mancava pure questa emergenza. Elisabetta, se tu hai piacere di rimanere con noi ti teniamo ovviamente volentieri, visto che peraltro hai avuto anche il timone della prima settimana di Ma che cos'è quest'estate anche quest'anno. Chiudo con te solamente segnalandoti un messaggio di un'ascoltatrice, Carola da Torino, che ci scrive: posso approfittare per fare i complimenti ad Elisabetta, ho letto proprio in questi giorni il suo libro Carciofi alla Giudia, bellissimo e anche divertente. Grazie infinite. Allora, sarò con voi, così ci spiegheranno perché il perché di questa emergenza continua. Non possiamo fare le cose normalmente a Roma? Allora, vediamo che cosa ne pensa Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia, che è la federazione che riunisce i gestori dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente nel nostro paese. Colarullo, allora, rispetto ad una cronaca sul campo come quella che ci ha fornito poco fa la nostra collega di Roma, Elisabetta Fiorito, cosa si può commentare ad oggi? Poi magari, se lei ci aiuta, ci fa anche un po' un quadro italiano rispetto a questa emergenza. Non è che ci dobbiamo adesso aspettare, visto che se le condizioni climatiche non migliorano, questa secca c'è in tante altre zone, non è che ci dobbiamo aspettare in altre zone d'Italia, in altre città d'Italia, una situazione simile a quella della capitale. Colarullo, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Ma io direi in primo luogo Roma chiaramente è un po' un hotspot al momento, cioè è un po' in evidenza nelle cronache, però la situazione è un po' più generalizzata, quindi mi focalizzerei proprio sul quadro nazionale. È più generalizzata nel senso non che andiamo incontro a tagli, interruzioni e quant'altro, peraltro evidenzierei che in alcune zone d'Italia la turnazione è un fatto della vita sostanzialmente, ma la cosa centrale da evidenziare è che questo è un anno particolarmente problematico, perché abbiamo avuto un livello di piovosità che va indietro nel tempo, addirittura all'autunno del 2016, piuttosto basso, poi nevosità bassa e accompagnata poi da questa estate particolarmente torrida e calda e scarsamente piovosa, come avete citato voi il dato dell'80% di pioggia in meno in agosto, ha sostanzialmente condotto a questa situazione pressoché diciamo molto complessa da gestire. No, tra l'altro, ecco, appunto, come lei diceva, veniamo già da situazioni e danni un po' complicati. Leggevo, mentre lei rispondeva alla mia prima domanda, alcuni dati riportati dal Focus dell'Istat che sono stati elaborati in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Questi dati sono stati rilasciati nel marzo di quest'anno e indicano che nel 2015, per esempio, nel nostro paese è andato disperso il 38,2% dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile dei comuni capoluoghi di provincia. Nel 2016 il 9,4% delle famiglie italiane ha lamentato un'erogazione irregolare dell'acqua nelle abitazioni, una percentuale comunque in diminuzione rispetto ad un decennio prima, ma che comunque assume valori ancora alti in Calabria, in Sicilia e in Abruzzo. Il problema, Colarullo, se non ricordo male, perché voi lo avete ribadito anche ad altri tavoli, sono le reti vecchie e poco mantenute, e in Italia in questo campo si investe molto poco. Sì, sicuramente questo è un problema centrale per quanto concerne la gestione del servizio idrico. Ci terrei però a specificare che il tema siccità riguarda i vari usi dell'acqua, quindi in primo luogo cerchiamo di inquadrare nel quadro più ampio. Il quadro più ampio dice che il 50% dell'acqua viene utilizzata in agricoltura e un altro 20% circa da parte dell'industria. Quindi dobbiamo cercare diciamo ridurre i consumi da parte di tutti i settori e far fronte quindi a una ciclicità adesso della piovosità che potrebbe portarci a scarsa piovosità con picchi quinquennali, cioè ogni 5 anni. Detto ciò, assolutamente vero, le reti sono vetuste e c'è bisogno di rinnovarle. Si tenga presente sostanzialmente che noi abbiamo un parco reti che ha per il 25% un'età superiore ai 50 anni. Il tasso di rinnovo è piuttosto basso, ben sotto l'1%, frase diciamo ricorre 250 anni per rinnovare tutta la rete acquedottistica. Questo è tendenzialmente dovuto ad un passo degli investimenti che storicamente è stato piuttosto lento e che ha avuto però un'accelerata negli ultimi 2 anni grazie anche all'introduzione di una regolazione nazionale che ha reso le regole chiare e il recupero in tariffa possibile e chiaro, e che certamente sta agevolando il lavoro dei gestori. Sento parlare delle reti che perdono da quando ero al liceo, ci racconta un ascoltatore, ho 66 anni. Detto questo, voi Colarullo avete spesso suggerito ai tavoli opportuni appunto la mancanza, la necessità di attuare una strategia idrica nazionale come per l'energia, però è anche vero che non ci sono solamente casi problematici o molto problematici in Italia, ci sono anche buone pratiche che stanno facendo scuola nel paese. Dove sono? Ma guardi, per esempio abbiamo la rilevazione delle perdite con usi satellitari in Emilia Romagna, in realtà anche nel Lazio e in altre zone. Queste permettono interventi puntuali rilevando appunto quelli che sono cambi di temperatura ad esempio, che indicano uno stato di perdita in alcuni punti della rete. Questo solo per dare un esempio, per una ricerca mirata e puntuale. L'Italia è ricca di fattispecie, casi di eccellenza in tutto il territorio. Oggettivamente la cosa che noi stiamo cercando di favorire come associazione, federazione, è quella di portare a fattor comune queste eccellenze e condividere queste esperienze, così che ogni impresa possa poi utilizzarle nei propri territori. Il dato fondamentale che noi riscontriamo è che in sostanza, al di là di quello che sia l'assetto proprietario dell'impresa, cioè di partecipare al privato, ovvero di proprietà pubblica, la verità è che l'eccellenza sta in chi fa industria, chi è capace di gestire a livello industriale il servizio e quindi si orienta con le proprie capacità tecniche a gestire al meglio per i cittadini e appunto a fare tutto il possibile per dare un servizio continuativo. Allora, intanto invito anche in questo contesto i nostri ascoltatori, oltre a scriverci, e siete in tanti, al 349-238-6666, se volete chiamateci anche in diretta all'800-24-0024. Chiaramente qualche romano è preoccupato, c'è chi lamenta appunto la irresponsabile scelta di penalizzare i piani alti. Non è che lo sceglie qualcuno, se la pressione la riduce è chiaro che in alto l'acqua non ci può arrivare. Altri che contestano la nostra faziosità politica, ma nessuno parla, anzi abbiamo detto che ovviamente almeno su questa cosa qua la responsabilità della Raggi non c'è, stiamo parlando di sicuramente di una sorte molto come malevola che l'ha colpita anche da questo punto di vista, e si trova adesso ad affrontare anche questo problema. Come si trova ad affrontare questo stato molto problematico il mondo agricolo? Ne abbiamo già parlato peraltro in una trasmissione settimana scorsa, ma abbiamo monitorato le preoccupazioni degli agricoltori, degli allevatori in questo frangente così difficile dal punto di vista climatico, e ci torniamo anche oggi perché è finito anche il mese di agosto e probabilmente con le cifre rotonde si possono stilare dei bilanci più esaustivi e che sono anche piuttosto tristi da compilare, soprattutto quest'anno in cui la siccità continua a fare danni enormi all'agricoltura a Roma, provincia e in tutta Italia, investendo molteplici colture. Chissà quante lamentele raccoglie ogni giorno Giorgio Mercuri, presidente dell'Alleanza delle Cooperative Agricoli Agroalimentari. Buongiorno presidente, grazie di essere tornato con noi. Buongiorno a voi. Allora, adesso magari andremo così a fare un punto della situazione settore per settore, dal vino alle mele, ai pomodori, ai tartufi. Grandi allarmi manifestati anche per questa produzione così rinomata per il nostro paese, ma intanto un quadro complessivo ad oggi che cosa ci racconta, presidente? Ma guardi, stiamo vivendo un anno particolarmente difficile perché il forte mutamento climatico si sta concentrando in questa annata che è partita dalla primavera per le nostre aziende agricole con le gelate, ed è entrata nella parte estiva con questo caldo che non solo sta creando forti danni per tutto quello che si è detto fino adesso, la carenza di piogge, il problema idrico, ma anche dai fenomeni di grandinate che abbiamo avuto nei giorni scorsi su buona parte del nostro paese. Certamente i settori sono tutti in difficoltà, dal settore vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, lattiero-caseario, il sistema boschivo, tutto viviamo questi giorni i grandi incendi che stanno distruggendo il nostro patrimonio boschivo. Tutto questo è un fenomeno che stiamo vivendo in un mutamento climatico che si fa sentire fortemente e su cui naturalmente l'assenza di acqua, le alte temperature creano grossi danni. Non a caso siamo in vendemmia in tutta Italia, quindi non c'è più quella differenziazione tra nord e sud, e stiamo vendemmiando molto meno, e le previsioni sono che avremo una scarsità di uve, tanto da pensare che sarà la vendemmia più carente degli ultimi 10 anni, e con una grossa perdita di naturalmente ricchezza anche enologica che ci fa perdere anche quote di mercato. Quando direi, infatti, parliamo importanti. Di un prodotto che va in giro in tutto il mondo con grande successo, come è noto, non dobbiamo, appunto, non scopriamo noi oggi. Assoenology ha detto: non si ricorda una stagione come quella in corso, gli eventi climatici sono accaniti con un'eccezionale portata già da aprile, quando un'ondata di gelo ha attraversato tutto il paese bruciando molti germogli ormai già ben sviluppati, poi un lungo periodo di siccità che ha messo a dura prova i vigneti, in particolar modo, presidente, del centro sud Italia, ma poi anche il nord. Sì, ma anche il nord, perché il nord ha subito da prima le gelate, quindi poi è chiaro, un po' tutta l'Italia, il centro sud, che da sempre, come è stato già detto, noi viviamo una particolare, siamo in una particolare area del paese dove le temperature elevate estive le abbiamo sempre avute, ma non abbiamo avuto una lunga siccità come quella che stiamo avendo quest'anno, e quindi questo si è fortemente riscontrato poi su quelle coltivazioni dove non si fanno interventi idrici, su cui naturalmente poi si compromette la produzione. Ma tutto questo poi si sta riversando nel settore del pomodoro, nel settore degli allevamenti, perché gli allevamenti non solo hanno ridotto la produzione, perché è chiaro, con queste temperature si fa, anche gli animali soffrono tantissimo, seppure le nostre stalle oggi utilizzano sistemi per mantenere areato in modo, diciamo, quasi condizionato l'ambiente, ma chiaro, le nostre temperature creano questi problemi. Abbiamo vissuto la scarsità di raccolto del grano, quindi dei cereali, e lo stiamo vivendo. Meno 10%, leggevo, una contrazione di grano duro da pasta, duro, appunto. Esatto. Un meno 10% sul grano duro, ma stiamo vivendo adesso la raccolta del mais, anche lì abbiamo forte carenza di prodotto che ci riporteremo poi avanti. L'altra cosa che stiamo vivendo in buona parte d'Italia di questi giorni sono i trapianti delle colture ortive per il prossimo autunno inverno. Si fa fatica a trapiantare perché le alte temperature non permettono alla piantina di svilupparsi, quindi muore nella fase di trapianto. E quello che ci preoccupa di più è anche quello che si è detto, il sistema idrico italiano, che per l'agricoltura è fondamentale come per la popolazione, dove abbiamo gli invasi quasi vuoti, e quindi questo non ci permette neanche di fare programmazione a lungo termine, perché se non ci sono eventi eccezionali di piogge che possono arrivare e possono tranquillizzare un po' tutti, noi abbiamo gli invasi a sud che sono quasi praticamente vuoti e che non ci permettono di fare programmazione di coltivazione autunno-invernale. Ecco, aggiungiamo, Presidente, quello che questa situazione comporta dal punto di vista economico per voi. Per esempio, facciamo riferimento alla bolletta dell'elettricità che serve al sollevamento dell'acqua per l'irrigazione, per cui oltre al danno anche la beffa, ma anzi un altro danno, direi. Certo, noi stiamo vivendo due fenomeni straordinari, quello dei costi naturalmente che si aumentano in questa fase. Di solito il mercato dice che quando si diminuisce la produzione aumentano i prezzi, questo non sta neanche avvenendo. Perché? Perché sostanzialmente abbiamo una concentrazione della produzione nel settore frutticolo, dove c'è la crisi della frutta estiva, pur avendo meno produzione si è concentrata dal nord al sud tutto contemporaneamente, quindi in realtà il consumatore non ha notato nessuna carenza sugli scaffali, ma il produttore ha prodotto meno avendo costi maggiori nel poter mantenere la frutta nelle condizioni di poter essere commercializzata. Quindi sono fenomeni, ha detto, su cui si fa fatica a gestirli. Noi nel sistema idrico, come mondo agricolo, ci siamo da tempo organizzati per una sostenibilità idrica, sempre di più quello che erano gli impianti a goccia che venivano utilizzati solo a Israele, ormai sono parte integrale delle nostre coltivazioni orticole e arboree, cioè si utilizzano sistemi per ridurre fortemente il consumo idrico. Però questo non è sufficiente quando abbiamo annate come quelle di quest'anno, dove, ho detto, le temperature non permettono neanche di cadere sul terreno la goccia, perché già viene evaporata da queste elevate temperature. Infatti non avremo porcini per il troppo caldo e la poca pioggia, i boschi sono sempre più asciutti, sono d'improvviso colpiti da temporali violenti e, leggevo proprio un vostro commento, Presidente, inutili, l'acqua se ne va, al fungo non piace la doccia fredda e quindi non viene su. Esatto, abbiamo carenze, è un anno dove abbiamo carenze praticamente in tutte quelle che sono le produzioni, dove sia quelle naturali, perché i funghi che nascono spontaneamente nei boschi, come il tartufo che comunque è venuto già a mancare quello nero, ma avremo sicuramente grosse carenze anche di quello bianco, quindi grossa difficoltà, ma tutto quello che è naturalmente è spontaneo e possa essere come dire, patrimonio di una ricchezza naturale che abbiamo come paese, laddove poi ci sono fenomeni straordinari non riusciamo più a gestire. Presidente, detto che l'agricoltore dovrebbe essere in via teorica preparato a gestire condizioni meteorologiche avverse anche quando queste sono particolarmente dure, ma questa di quest'anno ci sembra, lo abbiamo ancora Mercuri? Ho sentito. Eccoci qua. Quella di quest'anno è una situazione particolarmente straordinaria che vi colpisce in modo altrettanto straordinario. Come si risolleva un agricoltore da una condizione di questo tipo? Guardi, la difficoltà più grossa è proprio questa, perché una volta c'erano degli interventi straordinari che venivano fatti dal paese qualora si avevano queste calamità, che erano calamità naturali. Oggi gli interventi, seppur il governo li mette in atto, mancano le risorse economiche e quindi sono palliativi che vengono messi attivati, ma che poi nelle tasche dell'agricoltore non arriva nulla, se non il fatto che la speranza che poi ci possano essere delle risorse a compensare tutto questo. E questo è quello che oggi scoraggia di più l'agricoltore rispetto a degli investimenti che deve fare in un'annata come quella di quest'anno, dove fa fatica già a pagare i costi. E quindi è sempre più difficile. La stessa Europa, che sta mettendo in campo strumenti straordinari, sono limitati ancora, seppur oggi si sta pensando fortemente a un sistema assicurativo di reddito, e quindi solo questo può essere una tranquillità per il futuro, ma fino ad oggi questo sistema ancora non è stato messo in campo, l'Europa ci sta lavorando, l'Italia sta spingendo, ci auguriamo che nei prossimi anni ci possa essere un sistema assicurativo che possa garantire anche questi eventi straordinari che mettono in condizione la... Dove sì, ogni tanto lo perdiamo, presidente Mercuri. Eccoci qua. No, tanto stavo leggendo anche alcuni messaggi di alcuni ascoltatori che lamentano perché non parliamo di certe colture e le discriminiamo rispetto ad altre, perché delle nocciole non avevo notizie. Anna, lo dico all'ascoltatrice, altri segnalano campi di girasole con girasoli ancora non raccolti, non so perché non sono stati ancora evidentemente tagliati. Lo dico a Federico da Bologna, ha detto questo. Insomma, i campi che si potrebbero esplorare sono molti. Detto questo, abbiamo fatto uno stato dell'arte ad oggi che è molto, molto serio per il mondo, appunto, dell'agricoltura, colpito duramente da questa siccità, di questa drammatica, terribile, caldissima estate 2017. L'ultima domanda la assegno a Giordano Colarullo di Utilitalia, come ricordo ancora la federazione che riunisce i gestori dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente. Cosa ci dobbiamo ragionevolmente aspettare per questo autunno? Le temperature si rinfrescheranno senz'altro, non sappiamo se arriveranno delle piogge, ma dobbiamo aspettarci di vivere altre situazioni simili romane, secondo lei, Colarullo? Ma sperabilmente no. Innanzitutto, come diceva lei, si presume che la piovosità torni, se non a dei livelli in media del passato, almeno torni a far gioire le fonti idriche. Certamente però l'attenzione e il focus delle nostre imprese è stato quello proprio di accelerare, come ha fatto Acea, il programma di investimenti, in particolare focalizzato alla riduzione delle perdite. Pertanto non mi aspetto che vi saranno altre crisi o punti emergenziali tali. In dubbio però è questo, che dato un cambiamento climatico ormai in atto che stiamo vivendo, quest'anno è un picco, ce ne saranno altri probabilmente nel futuro, c'è la necessità di programmare una serie di investimenti che vanno al di là del recupero dell'acqua dalle reti che perdono e sono vetuste, ma che guardino anche alla costruzione di invasi e bacini, che sono opere che richiedono più tempo, l'utilizzazione delle dessalatori in maniera più diffusa ed efficace laddove lo segnalano anche gli ascoltatori. Guardi, lo stavo guardando proprio adesso un messaggio su questo. E guardare poi una molteplicità di fonti per quanto concerne i pozzi, nuove fonti sostanzialmente. E inoltre noi auspichiamo che l'acqua ad depurazione, portata a certi livelli di qualità, possa essere riusata, in particolare in agricoltura, perché questo beneficerebbe tutto il sistema ed il ciclo. Al momento in molti sistemi idrici quest'acqua viene tra virgolette sprecata, nel senso viene trattata dai livelli adeguati per irrigare, però finisce direttamente in un corpo idrico e poi a mare senza alcun riuso. Diciamo così che le emergenze servono anche ad intavolare poi un dibattito serio su come riorganizzare un settore in crisi, e questo in questo momento possiamo dire che lo rappresenta. Grazie a Giordano Colarullo, a Giorgio Mercuri per essere stati con noi. Elisabetta Fiorito, 30 secondi, noi speriamo che l'acqua non te la tolgano, perché sennò tu non puoi continuare a cucinare, e sappiamo che sei un'ottima cuoca e ci dispiace molto. Grazie per questo, però ecco, vorrei poi sottolineare che a Roma la preoccupazione è sugli ospedali, ecco. C'è Acea che ha messo un piano di 50 autobotti, l'Umberto I, il Policlinico Umberto I e il Pertini dovrebbero avere delle vasche e quindi sono autonomi, il Gemelli si avvalerà anche delle autobotti, vediamo cosa succederà agli altri ospedali come il San Camillo. C'è quindi molta preoccupazione, e ritornando a quello che ti dicevo, 16 acquedotti di cui 11 di origine romana, di epoca romana, quindi partono dall'epoca di Traiano. Speriamo che però si vada avanti e magari ci si impegni verso nuove fonti come la desalinizzazione, come avviene per esempio in Israele. Grazie. Sì, ecco, altre circostanze e similitudini riportata anche da alcuni ascoltatori. Elisabetta, grazie per essere stata con noi anche a te. So che te, mi pare che alle 12 tocchi il tavolo sulla previdenza di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte del programma, devi andare al Ministero del Lavoro. Ti salutiamo adesso velocissimamente la pubblicità, poi parliamo delle monetine da 1-2 centesimi, non ce le tocca nessuno, a tra poco. Ma cos'è quest'estate? Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Allora, giorno dopo giorno stiamo indicando come teoricamente il governo sta andando a costruire la prossima legge di bilancio, e a quanto pare hanno intenzione di metterci anche questa norma per fare marcia indietro rispetto ad una decisione presa qualche mese fa. E quindi, altro che decreti attuativi, possiamo dire addio al provvedimento che era stato adottato con la manovrina della scorsa primavera, che prevedeva l'interruzione del conio delle monetine da 1 e 2 centesimi. Il governo è giunto alla conclusione che non ha alcun senso interrompere appunto il conio. Noi ne avevamo già parlato, si erano peraltro anche sollevate molte associazioni dei consumatori in merito a questa prospettiva, perché ci avevano detto intanto che prezzi praticheranno i commercianti, subito avevano visto una gara alla speculazione legata a questa circostanza, e poi altri avevano detto ma insomma, se ci togliete le monetine, chi insegnerà il risparmio ai bambini che vengono magari pagati con queste piccole monetine, le mettono così faticosamente nel salvadanaio, e tutte quelle che già abbiamo nel salvadanaio che fine faranno? Ne riparliamo questa mattina intanto con Alex Richebuono, esperto di storia economica, che già nell'altra puntata ci aveva aiutato a scovare qualche curiosità in merito ad un argomento un po' più allargato. Alex, ben trovato. Buongiorno, grazie. Molto carinamente, visto che lavora qua vicino, ci ha raggiunto qui in studio. E poi abbiamo interpellato questa mattina anche Sergio Boccadutri, deputato del PD e firmatario dell'emendamento sulla sospensione del conio per le piccole monete. Buongiorno Boccadutri e benvenuto, grazie. Buongiorno. Ci ripercorre un po' la vicenda, come le era venuto in mente di proporre questa misura, poi arriviamo anche ai giorni nostri, alla marcia indietro, che in realtà non è una decisione del governo centrale nostro, ma in realtà pare che non sia proprio possibile sospendere la circolazione di una moneta europea, quindi la questione di questi giorni è un po' più complessa. Boccadutri. Beh, intanto come ci arrivo, dico molto semplicemente l'esperienza, perché queste monetine vengono rifiutate, non vengono utilizzate, quindi sostanzialmente anche se costa, vengono prodotte sostanzialmente soltanto a costo, perché e questo non è per sé un problema, perché se la moneta viene prodotta a costo comunque la sua circolazione dovrebbe ammortizzare questo costo anche maggiore valore facciale. Il problema è che non vengono accettate dalle persone, nei mercati, nei supermercati effettivamente le vengono accettate, nei mercati o comunque nei piccoli esercizi commerciali, ma soprattutto non possono essere utilizzate in tutte quelle macchinette che dai parchimetri piuttosto che dalle biglietterie, piuttosto che pagare l'autostrada. E quindi da questo punto di vista, guardando un po' alcune esperienze europee, non ultima l'Irlanda, sulla quale poi magari appunto a proposito dei diktat europei ne riparleremo, e ho detto perché non lo facciamo qui, producendo un risparmio. E lo aveva anche quantificato Boccadutri? Ma guardi, io avevo fatto una richiesta appunto di quanto era costato alla zecca, molto informale, abbiamo detto all'incirca 20 milioni di euro l'anno. Che si ridurrebbero con l'effetto di sostituzione delle nuove monete da 5 cents, ovviamente da introdurre, Ma anche su questo, ad esempio, un maggiore utilizzo dei cinque sensi in circolazione, dei cinque centesimi in circolazione, che noi stessi non utilizziamo, perché noi alla fine non ci pensiamo, ma anche i cinque centesimi li utilizziamo poco, magari li utilizziamo un po' di più elementi 1 e 2, però con le regole di arrotondamento verrebbero maggiormente rimessi in circolazione rispetto a, quindi utilizzate maggiormente, e quindi avremmo un'esigenza di produrne di meno. Questo esempio è quello che sta succedendo in Irlanda. In Irlanda hanno iniziato a sostituirle, ma stanno riducendo la sostituzione perché le persone cominciano a utilizzare quelle che hanno in casa. Mm-hmm. Intanto, per quello che riguarda l'abolizione delle conio di queste monete, già altri paesi avevano deciso in questo senso dall'inizio della moneta unica, dall'avvento della moneta unica, per esempio la Finlandia, no, Boccadutri? Sì, la Finlandia, ma non da ultimo l'Irlanda, infatti io ho queste indiscrezioni di cui si è parlato sui giornali. Forse nel 2014. Il Belgio, l'Irlanda, ma non è adesso, infatti non ho capito bene queste indiscrezioni, su quali basi giuridiche si poggino. Lo scriveva la stampa nei giorni scorsi, sì. Pare appunto che sia una questione europea, ma se altri paesi appunto lo hanno fatto. Adesso magari l'esperto di storia economica ha studiato un po' più di noi, Boccadutri, cioè, no, Ricche e Buono. Allora, sostanzialmente, siccome il conio di queste monete viene demandato ai governi periferici, ma è in capo alla Banca Centrale Europea, deve essere una decisione è autorizzata dalla Banca Centrale Europea, quindi non è escluso che coinvolgendo la Banca Centrale Europea si possa comunque arrivare a quello che è successo in altri paesi europei. Quindi il tema è questo, diciamo che lei, Boccadutri, non ha al momento ancora bussato alla porta di Draghi per chiedere... No, da questo punto di vista devo correggere, perché allora il non con origine di comune che ha detto una cosa giustizia, l'emendamento a me proposto diceva espressamente che entro un mese alla sua entrata in vigore il contenuto della norma mandava comunicato alla BCE, che avrebbe comunque e quindi ancora il tempo di darci tutte le sue riflessioni, e che intanto la norma non era immediatamente applicativa, ma sarebbe applicata dal 1 gennaio 2018. Quindi noi ad oggi non siamo in un regime di sospensione, siamo in un regime in cui attendiamo la nota della BCE per correggere eventualmente la norma. Quindi anche da questo punto di vista, è esattamente a conferma di quello che ha detto correttamente Ricco Buono, la norma prevedeva esattamente questa interlocuzione con la BCE, mentre non prevedeva alcun decreto attuativo. Quindi non è detto che non si vada avanti, lei ci sta dicendo oggi. Io aspetto di leggere cosa dice la BCE. Dicevo la norma che deve appunto comunichiamo alla BCE la decisione. Quindi non è detto che nella legge di bilancio ci sia la misura per fare marcia indietro rispetto a quanto avete stabilito e quanto volete portare avanti, lo avete stabilito qualche mese fa. Allora, intanto Alex Ricchebuono, già c'era stata la gara all'accaparramento di queste monetine, così con il progetto di farle diventare qualche cosa di molto di un piccolo tesoretto, no, in casa, ma ci sono dei centesimi particolarmente preziosi in circolazione? Sì, certamente, ne avevamo già parlato anche l'altra volta, era capitato proprio all'inizio, quando vennero coniate per la prima volta le monetine da 1 e 2 centesimi, che in Italia fu fatto un errore, cioè venne stampata sulla moneta da un centesimo la mole antonelliana, che invece sta sui 2. Tu non hai idea, poi ti do del tu, perché sì, con Alex ci conosciamo da un po' di tempo. A ridosso della trasmissione che abbiamo fatto l'altra volta, per una settimana non abbiamo fatto altro che andare a caccia di questi centesimi super di valore. Dopodiché la moda si è persa, ce ne siamo dimenticati, però allora ribadisci ancora un ci po'. sono ancora in giro? Sono ancora in giro, sono rarissime, perché cosa era successo? Era successo che vennero stampate e subito ritirate, perché si erano accorti dell'errore, però nei blister, quindi nelle confezioni di plastica che vengono consegnate, quelle che le commesse esatto, ogni tanto srotolano quando è il momento di dare il resto, e anche diciamo i numismatici che devono far vedere le monetine contenevano alcune di queste e sono sparite. Si calcola che in tutto fossero circa 7.000 queste monete, anche queste in parte ritirate, e addirittura ci fu un decreto che disse che non potevano essere utilizzate. Una casa d'asta italiana si oppose a questo decreto, dicendo che, ma per quale motivo, l'errore è stato vostro, però sono sempre monete che circolano. Certo. E infatti dopo 10 anni vinse la causa e queste monete ancora oggi possono circolare. Sono forse qualche centinaio in giro, quindi molto molto rare, tant'è che alcuni collezionisti le pagano oltre 2.500 euro, anzi addirittura... Però, vi invito a guardare allora molto attentamente nel vostro portafoglio, laddove si annida la monetina che non utilizzate mai perché sta lì ben nascosta. Addirittura un collezionista arrivò a pagarla 6.600 euro, una di queste monete, ripeto, con l'effigie della Mole Antonelliana, su quella da un centesimo invece di Castel del Monte, che invece è quella che... Pregiate da 2 centesimi non ce ne sono invece. No, da 2 centesimi non ce ne sono, però ci sono altri casi. Un caso, parlavamo prima della Finlandia, no? Nel 2004 il governo finlandese aveva emesso una moneta da 2 euro con un'effigie particolare che venne appunto distribuita solo in Finlandia, insieme ad altre monete. Alcuni numismatici avevano probabilmente fiutato l'affare e le ritirarono in blocco, tant'è che oggi quelle monete valgono tra i 50 e i 60 euro l'una. Una moneta da 2 euro che vale 50-60 euro, insomma, comunque è già una cosa simpatica. Investimento. Quale investimento ti rende altrettanto, direi? Questo è un colpo di fortuna più che vincere la schedina al Superenalotto. Allora, ci avviciniamo intanto al traffico, poi torno a Bocca d'Utri, perché il tema qua è capire se questa misura verrà appunto portata avanti secondo il suo intento, se verrà scongiurato questa ipotesi che è circolata in questi giorni di fare marcia indietro rispetto alla norma che vorrebbe ritirare dal conio le monete da 1 a 2 centesimi. Si apre allora l'altra partita di evitare le speculazioni che sarebbero già dietro l'angolo e sulle quali si erano sollevate appunto molte richieste di attenzione da parte delle associazioni dei consumatori. Ne parliamo tra poco, adesso sentiamo cosa succede sulle strade italiane. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Ma cos'è quest'estate? Sembrano sempre temi un pochino di nicchia, se vogliamo, ma in realtà scatenano una enorme curiosità da parte degli ascoltatori. Alex Ricche Buono, un ascoltatore, ci chiede, Andrea di Rovigo, dove si può controllare quali sono e che quotazioni hanno le monete degli euro, gli euro rari? Sì, allora, certamente internet è la fonte principale, la più semplice anche da consultare. Però anche lì ci saranno fonti autorevoli e meno accreditate. Esattamente, ecco. Bisogna sempre avvalersi del supporto di professionisti, numismatici professionisti, e all'interno di alcuni dei loro siti, non voglio fare nomi per non fare pubblicità, ma basta veramente scorrere ma dacci due particolarmente accreditati. Beh, che ne so, tu dove vai a controllare? Io ho i miei manuali, insomma i miei libri, sono ancora vecchio stile. La casa di Alex Ricche Buono è il museo, che prima o poi esce lui perché la moglie non ne può più. Purtroppo sì, è vero, o per fortuna. Detto questo, quello che conta, al di là della moneta in sé, sono due aspetti. Uno, quello della rarità, ma anche dello stato di conservazione, certo. Perché spesse volte mi è capitato di vedere magari delle monetine effettivamente rare in termini di quantità di coniazione, ma tenute malissimo, e queste hanno un valore molto basso, per cui bisogna stare anche attenti che non siano mangiate, rovinate, insomma, o schiacciate, perché questo ne riduce il valore, insomma. Allora, intanto, Bocca d'Utri, torno a lei. Allora, ammettendo appunto che si riesca a portare avanti questa sua iniziativa di permettere all'Italia di ritirare dal conio le monete da 1 e 2 centesimi, partirà poi la fase 2 della questione, e cioè la, tra virgolette, speculazione, perché l'hanno chiamata così, che potrà sorgere attorno al ritiro di queste monete, perché viene autorizzato, lo dice la legge, un sistema di arrotondamento che dovrà essere praticato in primo luogo, immagino, dai commercianti, un sistema di arrotondamento al multiplo di 5 più vicino per eccesso e per difetto. Ce lo spiega per un attimo, e come controllerete che non si vada verso qualche deriva speculativa come temono molti? Ma innanzitutto le monete da 1 e 2 centesimi si potranno continuare ad utilizzare tranquillamente. Questo va detto anche a chi ci ascolta, cioè non diventano appunto roba da rifiuti. Ma il problema è che per i pagamenti in contanti si utilizza questa regola di arrotondamento, che tra l'altro vorrei dire qui è stato esattamente questo esempio oggetto di una richiesta dell'associazione dei consumatori. Cioè, in una prima versione l'emendamento prevedeva che le regole di arrotondamento fossero demandate a un decreto attuativo, invece la norma non prevede alcun decreto attuativo. Le associazioni dei consumatori ci hanno detto: no, mettetelo in legge, perché così noi abbiamo uno strumento più forte nel caso ci siano delle violazioni di queste regole di arrotondamento. Le regole sono quelle che stanno utilizzando gli altri paesi europei, tra l'altro anche oggetto di una raccomandazione della Commissione europea sulle regole di arrotondamento del 2010, quindi anche qui ci siamo mossi dentro le regole europee, che hanno detto: queste regole ai 5 centesimi più vicino, ai multipli di 5, quindi può essere anche 5 e 10, fanno bene, non fatele di nuove. La raccomandazione della commissione è stata questa. Però tra l'altro, no, Boccaduti, perché il commerciante rispetto al prezzo di un bene deve indicare se costa 12,33 euro, deve scrivere quello, dopodiché sì, all'atto del pagamento si procede all'arrotondamento, perché esatto, in realtà se una persona se esibisce la carta di credito, il bancomat deve pagare quanto indicato, 12,33. Questo allora, innanzitutto, primo, il arrotondamento su che cosa vale? Sul totale, i prezzi devono rimanere tutti naturalmente espressi, e da questo punto di vista la verifica è davvero molto semplice. Se cominciamo a vedere tutti i prezzi espressi a 5,0, allora lì è evidente che c'è stata una, cioè proprio una frode, una malafede, una pratica commerciale non corretta, ecco. Ma è evidente, no? Cioè, perché invece sul totale si fa la regola di arrotondamento, ma vale soltanto, esattamente come appunto in Irlanda, in Belgio, in Finlandia, vale soltanto per i pagamenti cash. Cioè, se pago cash, arrotondo. Ovviamente, perché dalla sospensione del conio deriva una minore, appunto, una minore disponibilità, e quindi questa è la soluzione per risolvere, quindi è un corollario. E come si fa a sorvegliare? Beh, da questo punto di vista esattamente come si fa in tutti gli altri casi, cioè nel senso come si verificano appunto se ci sono frodi sui prezzi, su segnalazione del consumatore, ma anche da questo punto di vista quante volte associazioni dei consumatori sollevano diciamo la questione. Io vorrei dire che da questo punto di vista mi preoccupo poco, perché la grande distribuzione organizzata solitamente seria difficilmente si deve fare appunto fa un giochino, poi comunque diciamo che è quella che utilizza più il resto con le monete da 1 e 2 centesimi come resto, difficilmente andrebbe a fare, comunque sarebbe fin troppo visibile. Al mercato il piccolo commerciante, già oggi, almeno questa è la mia esperienza diretta, ma credo quella anche di molti ascoltatori, si pratica l'arrotondamento, nel senso che l'arrotondamento viene dato, solitamente viene fatto prevalentemente in difetto, cioè a vantaggio del consumatore, nel senso che il commerciante, che quando viene il totale della carne che si è acquistata 10,52 euro, di 10,50 euro. Certo. Comunque, da quello che mi ricordo, ogni anomalia negli arrotondamenti, se proprio ci disturba o se non ci è chiara, deve essere e potrà essere segnalata all'autorità garante del mercato. Boccaduti, io adesso la saluto, spendo gli ultimi 2 minuti con Alex Richebuono, se avesse del novità su questo tema ce le faccia sapere, perché vedo che gli ascoltatori sono estremamente interessati. Quindi grazie, vedremo se in legge di bilancio questa norma per fare marcia indietro ci sarà o meno, o se riuscirà appunto a bypassarla. Detto questo, Alex Richebuono, allora parlavamo prima della rarità della moneta da un centesimo con raffigurata la mole antonelliana, ma chi decide l'effigie da apporre su una moneta? Allora, ci sono delle apposite commissioni. Allora, ricordo. È corretta dire l'effigie, è corretto? Assolutamente, assolutamente. No, perché sai, non è che sono un esperto. Nessun errore. C'è da dire che, diciamo, la possibilità di disegnare una moneta nella storia è sempre stato un motivo di grandissimo orgoglio, tant'è che ci sono fior di artisti, veri e propri artisti, che nei secoli hanno fatto un po' a gara per poter essere coloro che mettevano le loro immagini sulle banconote. Uno tra tutti, che tra l'altro ha esposto a Milano non tanto tempo fa, è Alfonso Mucha. Alfonso Mucha ha fatto tutta una serie di banconote per l'Ungheria quando finisce l'impero austro-ungarico. Una mostra meravigliosa, Palazzo Reale, straordinaria. Sì. È un artista che è possibile possedere sotto forma di collezionismo avendo alcune delle banconote che aveva disegnato lui. Quindi esistono delle commissioni che sono diciamo organizzate dalle banche centrali. Oggi chi decide cosa mettere sulle banconote, purtroppo l'euro, ai noi, non è una delle banconote, non solo tra le banconote più belle al mondo, anzi direi forse tra le meno belle. Io ho avuto la fortuna di conoscere una persona straordinaria che è stata colei che ha disegnato la faccia dell'euro che c'è sulle nostre dell'euro italiano, quindi l'uomo vitruviano, che è Laura Cretara, un'italiana, una donna straordinaria, che tra l'altro era stata anche colei che aveva disegnato le ultime 500 lire quando c'era ancora, certo, la lira. Quindi... Però c'è tutta una scelta che viene fatta da una commissione nazionale, poi per l'euro è stata chiamata in causa anche la RAI, c'è stata corretto un sondaggio popolare, sì. E poi però la moneta da un euro non fu sottoposta a voto proprio per l'uomo vitruviano, perché Ciampi disse no, questa non va votata, va bene così. E fu appunto Laura Cretara a disegnarla. Allora, tenete conto che oggi le monete sono ancora in capo alle zecche locali, mm-hmm. mentre le banconote sono stampate e decise in toto dalla Banca Centrale Europea. E come vedete c'è, ahi noi, stampato tanto ultimamente, un'influenza tedesca molto forte nel diciamo disegno di queste banconote. C'è un po' più di, come dire, fantasia e di possibilità di insomma artistica nelle, certo, monetine, ed è per quello che alcune di queste monete da 1-2 euro, come dicevamo prima, diventano anche oggetti da, certo, collezionismo, perché alcune sono meravigliose, veramente bellissime. Qual è la tua preferita? Beh, sicuramente una irlandese bellissima del 2004, quella che dicevo prima del 2004 sempre della Finlandia, che venne ritirata e oggi circola nel collezionismo a 40-50 euro. Sicuramente l'euro con l'effigie di Leonardo, l'uomo vitruviano, la trovo di una bellezza, certo, meravigliosa, certo. Ecco, sì. Senti Alex, l'ultimo commento, poi fra due minuti dobbiamo salutarci. Allora, viviamo in un paese che fa ancora un larghissimo utilizzo di contante, forse è questa la ragione per cui questo dibattito sul ritiro dal conio delle monetine da 1 e 2 centesimi è stato così effervescente nel nostro paese, però ci dovremmo convertire prima o poi intanto all'uso un po' più sostenuto della moneta elettronica, quindi bancomat, carta di credito, fino a quando tutti ci trasferiremo nell'universo delle criptovalute, dei bitcoin. E so che tu ne parli fra un paio di giorni proprio ad un evento, esatto, forse più importante d'Italia. Sì, sarò appunto a Riccione, al convegno numismatico di Riccione, a parlare proprio dell'evoluzione del denaro, con focus principale sulle criptovalute, sul bitcoin. Tra l'altro si parla tantissimo di bitcoin, quasi nessuno sa che cosa sia. Bravo, oggi dovremmo vale... farci un bel po' di trasmissioni. Sì, oggi il bitcoin viene scambiato a oltre 4.000 dollari a pezzo. Un'altra bolla forse. Valeva un dollaro nel 2009, ha avuto una crescita esponenziale, si potrebbe fare una trasmissione solo su questo. Bolla, sì, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Qual è il vantaggio del bitcoin? Che ha un asintoto a 21 milioni di pezzi, quindi verranno prodotti al massimo 21 milioni di bitcoin. Se come la si chiama questo tetto alla produzione? Asintoto, quindi un punto, un tetto massimo, no? Non si finisce mai di imparare, incredibile. 21 milioni di pezzi, quindi vuol dire che se c'è più domanda rispetto all'offerta, è chiaro che il prezzo sale. Questo vale, è una legge. Perché questo tetto produttivo comunque è già stato raggiunto. Ecco. Però è molto difficile produrre nuovi bitcoin, per cui la lentezza della produzione non sta dietro alla domanda. Che effigie ha un bitcoin? Non è, ecco, è virtuale, quindi non c'è effigie. Viene allora rappresentata tanto con una produrre, B grande che sembra un dollaro, ma è tutto insomma un gioco di marketing. In realtà essendo virtuale è virtuale, quindi ci non esiste. Ci hai portato in un mondo veramente affascinante. Grazie. Per cui ti richiamiamo presto, sai che partiamo con una trasmissione nuova lunedì, ma con Mauro Meazza saremo ben felici di ospitarti. E io felice di essere con voi. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a Laura Faggin, Stefano Sfondrini per la collaborazione in redazione, anche Alessandro Marcotulli, mentre c'è Paolo Corleoni in regia. Ho terminato, a domani.